piacere di avere con noi Rossella Salpini, che si presenta al nostro pubblico con il suo primo romanzo. Ecco, quindi siamo contenti di tenerla a battesimo, così si può dire, e speriamo di portarle fortuna. E il titolo è Il tempo dei quadrifogli di seta. Ho chiesto se aveva piacere che la potessi accompagnare io questa sera nella presentazione del suo romanzo, perché come spesso faccio prima di presentare qualcosa con i miei collaboratori in questa biblioteca, diamo un'occhiata, leggiamo, qualcuno di noi legge. E io ho preso in mano il suo romanzo e le dicevo prima che ho iniziato una domenica pomeriggio alle 2 e l'ho finito per l'ora di cena. Quindi l'ho divorato, mi è piaciuto e l'ho trovato molto facile, leggero, ma non per questo facile nella sua costruzione, anzi tutt'altro, e poi adesso avremo anche l'occasione di scendere nel dettaglio di questo racconto. Prima però volevo dire due parole per presentare l'autrice, che nasce a Milano ma vive a Rovereto dal finite le superiori, insomma, quindi ancora ragazza. Sì. E ha partecipato a numerosi concorsi letterari, soprattutto a partire dal 2007 fino all'anno scorso, il 2009, ha sempre ottenuto dei riconoscimenti lusinghieri, in quanto ha vinto parecchi premi letterari. Ecco, poi sul sito a lei dedicato ci sono tutte le notizie più dettagliate, vi invito anzi a visitarlo. Mentre questo è proprio il primo romanzo, è un racconto, direi, giovane, veloce, no? Discutevamo prima che ha quasi i ritmi di un film, ma non per questo i personaggi che si intrecciano in questo racconto non vengono approfonditi, anzi tutt'altro, bastano brevi tratti per descrivere una persona, e da questi piccoli segnali e indizi è facile così immaginarsi, e questa è l'abilità di Rossella, a mio giudizio, immaginarsi la persona che sta descrivendo. Un'altra cosa che mi ha colpito è proprio il fatto che questi personaggi si intrecciano in una vita molto vorticosa e veloce, ma tenuta bene a bada dalla regista, no? Sin dall'inizio ha bene in saldo la situazione, e c'è un finale che ha il sapore tutto della suspense. Però ecco, questo è un po' per darvi un quadro generale, quindi siamo nell'ambito della narrativa, non è un genere legato al giallo, però ha dei ritmi interessanti, ecco, assolutamente spingono il lettore ad iniziare e a terminare in un blocco unico questo romanzo, proprio per non perdere il gusto di questa narrazione molto molto veloce. Sì, buonasera, grazie a tutti, grazie alla biblioteca, alla dottoressa Trevisan, per avermi dato questa occasione, per essere uscita dalla regione ed essere venuta a Bolzano. Allora, Quadrifogli di seta, come diceva la dottoressa Trevisan, è nato nella mia testa come un romanzo dove dovevano essere presenti molti personaggi, e personaggi che all'apparenza non avevano fra loro nessun nesso o comunque niente da spartire in una fase iniziale della costruzione della trama. Siamo un po' vicino. Sì. E diciamo che sono personaggi connotati da una diversità, da un'iniziale diversità, perché poi leggendo il romanzo si vede che in realtà queste diversità si appianano e comunque tutto li lega e li tiene molto uniti, saldamente uniti. La voce narrante del romanzo doveva essere Sara, ed è Sara fondamentalmente, anche se ci sono poi molti spazi per gli altri personaggi. Sara è una ragazza dei giorni nostri, la storia parte, incomincia a partire verso la metà degli anni Ottanta, e parte con un incontro, diciamo così, abbastanza casuale tra Sara e un'altra delle protagoniste, che è Simona. è un incontro-scontro che darà luogo ad una lunga amicizia. Ad una lunga amicizia, quindi non svegliamo. Non svelo niente. Magari se, non lo so, se Mara vuole partire con la lettura del personaggio noi di abbiamo, Sara. Abbiamo una lettrice molto apprezzata che da qualche tempo ci accompagna nelle nostre serate, è Mara Daroit, che viene da Pineta di Laives e lavora anche al Teatro San Giacomo. Ok. Allora comincerei a tratteggiare, prendendo pari pari i passaggi di Rossella nel suo libro, il personaggio principale che è quello di Sara. Le patatine erano volate per aria, fuori dal loro contenitore colorato. Per fortuna non erano coperte da ketchup o maionese, visto che una parte era andata a cadere sul montone della cliente che le attendeva con impazienza. La Coca-Cola invece si era rovesciata sul bancone. Lì era rimasta per qualche secondo prima di finire sulle scarpe di camoscio della ragazza dai capelli ramati, che allibita osservava la scena. Farfugliai delle scuse, ossa per la vergogna. Sono scivolata e c'era qualcosa per terra. Le riporto tutto subito. Cosa vuole che me ne importi? Mi ha lavato i piedi e unto il montone. Le manderò il conto piuttosto. Era il 1986 ed a meno di un mese lavoravo in uno dei tanti fast food che stavano invadendo l'Europa. Per 3 giorni la settimana, dalle 18 alle 24, indossavo la divisa di ordinanza e mi mettevo all'opera. Friggevo patatine e cuocevo carne per imbottire gli hamburger, che a causa dell'enorme richiesta venivano confezionati a ritmi vertiginosi. E riempivo grossi bicchieri di carta con bibite gassate e cubetti di ghiaccio. E abbassando la leva di un apparecchio, adagiavo strati di crema dolcissima su una cialda a forma di cono. Tutte queste operazioni erano compiute simultaneamente da una decina di altri ragazzi che, come me, volevano guadagnarsi la laurea. Quel lavoro era di una noia e di una ripetitività mortali, ma mi permetteva di entrare in contatto con un campionario di varia umanità. Questo è il personaggio sì, di questo Sara. Questo è Sara, e così è il suo esordio forse in quella che è la vita adulta. È Sara che incomincia a lavorare in questo fast food, che incomincia appunto la sua entrata nel mondo e da questo episodio, nascerà appunto questa amicizia molto forte con Simona. Sempre un altro dei personaggi che inizialmente ha una rilevanza importante è Michele, anche quello conosciuto casualmente, perché sono personaggi che si incrociano, si conoscono e poi condividono un percorso, una parte appunto di questo percorso, e anche Michele l'accompagnerà per un po' nel cammino insomma della sua vita. Grande parte, oltre ai personaggi, l'hanno avuta anche i luoghi, ma magari poi di quello parleremo più avanti. Sono situazioni abbastanza reali, molto realistiche, sono situazioni che possono verificarsi e che si verificano, e questi personaggi hanno un sentire per certi versi abbastanza comune a quello di molti di noi. Io penso che chiunque si possa riconoscere in loro e nei loro accadimenti. Sara abita a Milano, ha appena finito le superiori. E quanto c'è di autobiografico in questa ragazza? Forse questa è di autobiografico, io dico non c'è niente. Forse questa è l'unica cosa, l'unico punto di partenza. Lei parte, finisce le superiori, parte, inizia un lavoro, inizia l'università e poi da lì gliene succedono di tutti i colori. Io sono fisicamente proprio partita e mi sono trasferita in Trentino, ho fatto un altro percorso. No, non credo che di autobiografico ci sia molto, perlomeno nelle mie intenzioni, cioè la mia intenzione era di non riversare niente di autobiografico nel romanzo. non mi sento, ecco, di dire che ci sia qualcosa che comunque no. Comunque è partita da una città, da sì, una dimensione da una che dimensione, lei conosce, esatto, che è familiare, esatto, per poi spaziare nel mondo. E, ecco, e l'incontro, come dicevo prima, con Simona è quello che dà il là a tutta la storia. E Simona è una persona all'apparenza molto diversa da lei, sia per caratteristiche fisiche sia per caratteristiche proprio di carattere, di inclinazioni, di attitudini. Eppure anche questo è un incontro che poi le legherà per un bel po'. Magari, ecco, se Mara sì, vuole... Sì, ecco, magari anche Michele, introduciamo anche Michele, magari anche Simona. Se... Sì, qualche nota anche su questo incontro con Michele, tra Michele e Sara. Allora, una delle battaglie che mi impegnava di più era la ricerca spasmodica di un posto a sedere fra i tavolini sovraffollati della mensa universitaria. Anche quel giorno erano già tutti occupati. «Andrò a mangiare in bagno!» dissi a voce alta, sbuffando come una locomotiva. «Forse sono meglio i gradini da fuori!» mi fece eco una voce alle spalle. Mi voltai e riconobbi Michele, un ragazzo che avevo notato nelle lezioni al laboratorio. Decisi di seguirlo e con il vassoio in equilibrio precario sulle ginocchia cominciammo a parlare. «Sei al primo anno?» mi chiese intento a strizzare uno spicchio di limone sulla cotoletta. «Sì, sono una matricola, una svogliata matricola!» Michele scoppiò a ridere. «Come inizio non c'è male, ma non preoccuparti. In quanto ho voglia di studiare, non sono messo molto meglio.» «Viva la sincerità!» gli dissi guardandolo dritto negli occhi, quegli occhi scuri che mi invogliavano a confessare quello che non avevo mai detto a nessuno a proposito della mia esperienza universitaria. «Sai, dopo il primo semestre questo ambiente ha cominciato a starmi stretto», gli dissi senza riuscire a staccare gli occhi dai suoi. «Continuo a chiedermi se la laurea è proprio quello che desidero.» Michele mi ascoltava mangiando di gusto. «Anche per me è più o meno lo stesso. Finirò l'anno in modo onorevole e poi prenderò una decisione in un senso o nell'altro.» Guardai l'orologio. Le lezioni del pomeriggio erano già cominciate. Dopo aver appoggiato il vassoio al gradino mi alzai di scatto. «Adesso devo andare.» «Aspetta un momento», mi disse tirandomi per la manica del giubbotto di jeans. «Ti voglio rivedere. Sei in facoltà domani?» «No, domani mi puoi trovare al fast food dove lavoro», gli dissi raccogliendo la borsa e il vassoio. «Ok, a domani allora.» E qui entriamo nel vivo con il personaggio Simona, che è strutturato in vari momenti che abbiamo scelto per creare una piccola traccia che vi introduce in tutto quello che seguirà. La monotonia del lavoro al fast food era spesso interrotta dall'arrivo di una delle clienti più assidue, la rossa dal fare altezzoso. Quella che un mese dopo la mia assunzione era stata travolta da patatine e Coca-Cola, quella che si ostinava sempre a mettersi in coda alla cassa dove stavo lavorando io. «Ho come l'impressione che mi perseguiti», ripetevo sconsolata. «Forse sono i suoi modi scorbutici che ti mettono a disagio», insistevano i miei colleghi. «A che santo ti raccomandiamo stavolta?» aggiungevano quando mi vedevano intenta a prepararle il vassoio. «Forse avrei bisogno di una benedizione papale.» Verso le 9 di una buia serata invernale, Tommaso ci accolse nella sua stube. Mi sedetti su uno dei divani e cominciai a fissare le sfere rivestite di specchietti che ruotavano appese al soffitto. La luce che le colpiva si frammentava in piccoli quadretti che si riflettevano sulle pareti ruvide. Tutto era al proprio posto in quella sala, tutto tranne me, che mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Il campanello squillava in continuazione e in pochi minuti il locale si riempì. Era passata una buona mezz'ora quando una scampanellata più lunga delle altre si levò sopra la musica e i rumori della festa. Tra l'indifferenza totale mi avviai su per la scala a chiocciola e aprii di scatto la porta. Impiegai una manciata di secondi per mettere a fuoco la figura che avevo davanti. No, pensavo. Non può essere lei. Cosa ci fa qui, la rossa del fast food? Scusa, hai intenzione di farmi entrare? Non sono un'imbucata, ma un'invitata a tutti gli effetti, esclamò. Indossava un basco di lana bianca che metteva in risalto il rosso dei suoi capelli. Allora, ripeté spazientita. Sì, scusa, entra. Con il passo deciso di chi conosceva la casa, si diresse verso la scala a chiocciola. Poi si girò di scatto e, prima di affrontare la discesa, mi chiese: ma tu non lavori al fast food? Sì, e tu sei una delle clienti più affezionate, se non sbaglio, le risposi con una punta di ironia. Per tutta risposta, allungò la mano destra. Piacere, Simona, disse sorridendo. Piacere, Sara, risposi a denti stretti. La vidi dispensare abbracci calorosi e baci affettuosi. Sembrava il clone solare della lunatica cliente divenuta il terrore del fast food. A quel punto volevo sapere qualcosa di più sul suo conto. Andai alla ricerca di Tommaso. Chi è quella? Gli chiesi indicandola. È un'amica di vecchia data, la conosco dai tempi del liceo artistico. Perché ti interessi a lei? È una delle clienti del fast food dove lavoro. Diciamo che non è tra le più cordiali. Eh sì, ha un carattere spigoloso ed è un po' strana, come tutti gli artisti del resto. Perché è un artista? È un'appassionata di pittura su stoffa, crea batik. E lo fa di lavoro? Gli chiesi. Fino adesso era un hobby. È iscritta ad architettura. Suo padre è un architetto famoso e gestisce uno studio con altri soci. Vorrebbe che lei entrasse nella società, continuò Tommaso. È un po' dura disegnando batik. Infatti, è già fuori corso. In un anno avrà dato sì e no un esame. Vado a bere qualcosa. Lo tirai per una manica. No, aspetta un attimo. Voglio sapere ancora qualcosa. Aprì le braccia sconsolato. Va bene, allora ti dico che per pagarsi i materiali non vuole una lira dai suoi. Si arrangia facendo la babysitter. E che cosa ne fa di tutti quei batik? Mi ha detto che le servono per il campionario. Ha preparato foulard e sciarpe di seta e sta contattando delle boutique. Forse ce la farà a trasformare quest'hobby in un lavoro. Dopo tutto quello che avevo saputo sul suo conto, ero anche disposta a perdonarle il disagio che mi aveva creato. Mi piaceva il suo modo di non omologarsi alla massa. Volevo conoscerla meglio. Quando la vidi sola e indecisa davanti a quel che rimaneva del buffet, la raggiunsi. Simona si girò e mi sorrise. Mi hanno detto che sei un artista. Ma diciamo che ho delle passioni e vorrei guadagnarmi da vivere facendo quello che mi piace. Ma è difficile sfondare. Mi parlò del campionario e di come cercasse di rielaborare le fantasie orientali per renderle più vicine ai gusti italiani. E del padre, che le aveva concesso in comodato gratuito uno sgabuzzino nel suo studio di architettura. Quella sera ci salutammo lasciando definitivamente da parte le antipatie, sicure che ci saremmo riviste di lì a poco, complici patatine fritte e hamburger. Qualche giorno dopo, appena avevo aperto l'armadietto, l'avevo trovato. Un sacchetto di plastica blu con la scritta UPIM, chiuso con una serie di punti metallici. Avevo indossato la divisa del fast food in fretta e furia, poi l'avevo aperto. In un foglio di carta velina c'era una sciarpa di seta stampata. Le sfumature del colore e l'odore della cera non lasciavano dubbi. La tecnica usata era quella del batik. Pensai a Simona e alla sua sciarpa per tutta la sera. Non l'avevo più rivista dal giorno della festa. Vicino ai campanelli una lunga serie di targhe d'ottone brillava sotto il sole. L'ultima, in basso a destra, riportava l'incisione «Studio Architetti Associati, primo piano». E lo stesso era scritto sul campanello che non mi decidevo a suonare. Improvvisamente, il pesante portone di legno si aprì. Sara, cosa ci fai qui? Ero passata per ringraziarti del pensiero, dissi toccando la sciarpa che mi pendeva ai lati del collo. Ma non serviva, era il minimo che potessi fare. Sono stata così scorbutica con te, mi disse sorridendo. Stavo andando a spedire dei campionari, ma posso rimandare. Vuoi salire? Ti faccio vedere i miei lavori, aggiunse illuminandosi. Accettai e la seguii. Ecco, grazie Mara. Allora abbiamo visto questi personaggi, questi primi personaggi, la voce narrante di Sara, Simona, la sua grande amica, e Michele, che nella prima parte del romanzo chiaramente accompagna Sara, è una parte importante della sua vita. Volevo sapere come li ha costruiti Rossella questi personaggi, a che cosa si è ispirata, se coglie degli attimi nelle persone che le passano accanto oppure attinge da qualche altro patrimonio. Ma probabilmente da tutti questi patrimoni, cioè il fatto di essere un'acuta osservatrice aiuta sicuramente nello scrivere, perché comunque forse aiuta a cogliere, a tratteggiare in poco tempo quello che, o a immaginare solo quello che c'è dietro una persona che si vede magari per pochi istanti. Quindi sicuramente ho preso spunti da persone che ho visto e che mi hanno ispirato questo. E direi di sì. Poi molta fantasia, cioè certe cose sono venute anche da sé, nel senso che magari partivo con un'idea e poi i personaggi si animavano come di vita propria, prendevano una strada che io non sentivo di aver dato loro, ma che era la penna che mi prendeva la mano e prendevano una direzione magari diversa da quella che io avevo immaginato inizialmente. Essendo un personaggio molto attuale, sicuramente ho attinto molto dalla realtà e dall'osservazione della realtà, questo sì, tutto quello che comunque ci circonda dai vari accadimenti che ci sono stati, sicuramente. E c'è un personaggio in particolare che predilige? Sì, c'è un personaggio che mi piace molto, è un uomo, è Bill ed è un attivista di Greenpeace. Io faccio una divagazione, ho sempre pensato, siccome ammiro molto l'attività di Greenpeace, e ho sempre pensato che se avessi scritto, se avessi fatto qualcosa, avrei cercato insomma di parlare di questa associazione, perché appunto è un'associazione che mi sta molto a cuore. L'occasione si è presentata quando ho scritto questo romanzo e avevo così nella testa questo personaggio, che era un personaggio un po' fuori dagli schemi, un fotografo freelance che appunto è un attivista di Greenpeace, che viene conosciuto nel corso di un viaggio in Indonesia che le ragazze fanno per approfondire la tecnica del batik, che ormai, come avrete capito, le unisce e fa un po' da catalizzatore di questa amicizia tra di loro. Direi che sì, non svelo, ma si capisce poi leggendo. Sì, è vero. Mi hanno chiesto che, ma forse il tuo personaggio preferito, ma dico, può essere, sì. Però l'ha fatto, insomma, l'ha tratteggiato molto velocemente perché sì, l'ha sì. Custodito bene, insomma. Sì, l'ho cercato, insomma, di non darlo a vedere quantomeno dall'inizio, ma poi lungo la strada forse si capisce, sì. Ecco, allora, un'altra cosa che colpisce nella lettura è sicuramente anche la quantità di temi attualissimi che vengono così toccati e che riguardano i vari personaggi. Abbiamo l'amicizia, che è forse quello più evidente e che unisce tutti i personaggi fra di loro, un'amicizia forte, c'è l'eros, c'è la morte, c'è l'omosessualità, il terrorismo e appunto anche la tutela per il paesaggio, l'ambiente, tutte tematiche molto attuali e vissute in maniera anche direi profonda dai protagonisti. Quello che discutevamo anche con Rossella è proprio il fatto che questi personaggi hanno una loro storia, perché appunto ne abbiamo avuto la conferma adesso, come spesso dicono gli autori, sì, ho tratto spunto dalla realtà, poi ho iniziato a costruirmi da qualche impressione un'immagine, un carattere, una storia di questa persona e poi mi è sfuggito tra le mani, insomma, è diventata una cosa reale che pensa, si comporta a seconda delle azioni e certo. Reagisce. Questo l'ho ritrovato spesso e quindi deve essere proprio anche dare soddisfazione all'autore, vedere vivere questi personaggi, crescere. Ma volevo sapere il rapporto, ecco, nei confronti di, perché toccare tutti questi argomenti? Adesso, a parte Greenpeace, che ci hai detto che è un tema e comunque un'attività, un movimento che hai sempre seguito, con cui condividi, ma per esempio il terrorismo internazionale, le stragi, che impressione o che cosa ha suscitato in te a tal punto da farlo diventare un elemento portante anche di questo racconto, come pure l'amicizia, oppure anche gli altri temi, la morte, l'eros e l'omosessualità. Ma come dicevo prima, in questo primo romanzo io volevo fare un romanzo che avesse una stretta attinenza con l'attualità, e l'attualità appunto ci offre molti spunti. Ho ritenuto che questi fossero spunti che comunque nella vita di ognuno o uno o l'altro ricorrono. Mm. Il discorso degli attentati di questo mi chiedevi tu prima, io espressamente parlo dell'11 settembre perché comunque è una svolta narrativa nel caso del romanzo, ma è stata comunque una svolta anche proprio per l'umanità e forse per le persone della mia generazione che non hanno vissuto direttamente una guerra, che grazie a Dio insomma, io l'ho vissuto come comunque un qualcosa che avrebbe segnato la mia vita in qualche modo. E da lì poi abbiamo visto che gli equilibri del mondo sono cambiati e sono nate problematiche diverse che forse prima erano a livello latente e poi sono così emerse in superficie. Il discorso dell'11 settembre, anche qui adesso non vorrei svelare, una cosa che ho cercato di fare nel romanzo è stato quello di non dare niente per scontato, quindi quando succede, a chi l'ha letto penso che lo possa confermare, che quando sembra che le cose si siano incanalate, stiano andando in una certa direzione, c'è qualche inghippo che le porta a prenderne un'altra e quindi era anche forse l'esigenza proprio di, io non volevo dare niente per scontato, volevo che ci fossero dei cambi di scena molto veloci, comunque legati alle attualità, comunque legati a tematiche che ognuno di noi poteva aver vissuto. Direi che questo è quello che mi ha così un po' guidata nella scelta di questo taglio. Infatti si potrebbe definirlo un romanzo globale, no? Perché alla fine questi personaggi si muovono legati dall'amicizia, dalla passione per il batik e da altri elementi, ma per vari continenti, insomma, andiamo certo. Dall'Asia, dall'Estremo Oriente, anzi, al Medio Oriente, il Nord Africa, per arrivare in Europa, negli Stati Uniti e quindi poi anche in America Latina. C'è di tutto, c'è sempre sì. Un collegamento, vengono anche descritti dei luoghi, si passa anche da dimensioni metropolitane a dimensioni più familiari o più esotiche, e quindi è piacevole anche perché descrivi molto bene anche le varie situazioni, come se tu ci fossi stata. Non ho chiesto se in realtà questi posti li hai frequentati, allora, li hai visti, visitati? No, non li ho visti, non li ho visitati, mi sono molto documentata. Ah, ecco. E sono ricordi di viaggio che mi hanno riportato amici, e anche questi probabilmente hanno covato a lungo e poi sono usciti. Così, l'ho scoperto, però c'è stato uno studio molto approfondito di tutto, insomma, dei luoghi e dei modi di vivere, sì, decisamente. Magari mi piaceva, se Mara poteva leggerci di Bill, visto che è il mio personaggio, che ormai lo ho confessato, che è il mio personaggio preferito. Se poteva magari leggerci. Se l'autrice è d'accordo, facciamo proprio uno spaccato sull'inglese tramite Bill e Stella. Sì, sì, ecco, magari sì. Ecco. Sì. Dopo aver smaltito la stanchezza, cominciamo ad apprezzare l'alberghetto di Somrovian, occupato in gran parte da turisti europei e americani. Secondo quanto sosteneva Simona, fra gli americani dovevano esserci alcuni fotografi. Altrimenti cosa se ne farebbero di quelle mega macchine fotografiche? Ripeteva ogni volta che ci passavano davanti. Li dobbiamo conoscere. Sarebbe un bel colpo farci fare il servizio da uno di loro. L'unico che ci degnò di attenzione fu un fotografo biondo. Doveva avere fra i 30 e i 40 anni. «Piacere, Bill», disse stringendoci la mano. «Finisco di sistemare l'obiettivo e sono subito da voi». Andammo a sederci poco lontano e un attimo dopo ci raggiunse. Abitava nel New Jersey, lavorava come fotografo freelance e vendeva molti dei suoi servizi al National Geographic. Collaborava con i Rainbow Warriors per documentare i disastri ambientali del pianeta. «È la parte del mio lavoro che amo di più», disse, spiegandoci che si trovava a Yogyakarta per dei reportage su mercati tipici locali, in particolare sul Pasar Baringhiaro. «Nessuno può dire di conoscere l'Indonesia se non lo ha visitato. È il paradiso delle spezie, dei batik e della frutta tropicale». Mi piaceva. Più lo guardavo e più mi intrigavo. «Possiamo accompagnarti ai mercati?» gli chiesi di getto. Simona mi guardò allibita, stupita da tanto coraggio. «Volentieri, se volete possiamo vederci già domani mattina». «Secondo me hai fatto colpo», mi punzecchiò Simona salendo le scale che portavano alle camere. «Può darsi», mi limitai a dire, senza ammettere che gli occhi verdi di Bill mi attraevano come una calamita. E adesso è Stella. Gli ordini fioccavano. Al rientro dalle visite alle boutique, Francesco toglieva dalla 24 ore un plico di fogli con la scritta «Consegna urgente». «Dovete scegliere, o aumentate la produzione o perderete metà del lavoro», insisteva. Simona era punta sul vivo. «Per aumentare la produzione, dobbiamo trovare qualcuno che abbia una certa pratica del batik. E qui non siamo mica a Yogyakarta». «Devo assolutamente parlarne con Bill», pensai. «Non disperare, forse posso fare qualcosa», disse al telefono con la solita voce profonda e tranquilla. Non ebbi il coraggio di chiedergli spiegazioni. Come avrebbe sbloccato la situazione dal New Jersey rimaneva un mistero. Qualche sera più tardi chiamò direttamente all'atelier. «Ti ricordi di Mercedes?» «Certo che mi ricordo di lei. E di sua figlia più grande, quella che l'aiutava al negozio. Estella, si chiamava Estella». «Già, Estella, abilissima nel suo lavoro». Estella, che aveva una fantasia sfrenata nell'abbinare i colori, unita a una pazienza esagerata. Estella, per la quale Mercedes sognava un futuro diverso dal suo. «Vorrei che studiasse», diceva. Lei taceva e abbassava gli occhi verdi. «E cosa può fare Stella per noi?» chiesi a Bill tornando alla realtà. «Può venire a lavorare per voi, a patto che possa studiare e che abbia assicurato il vitto e alloggio. Queste sono le condizioni di Mercedes». Abbiamo sentito anche la descrizione di Bill, il personaggio preferito, ormai l'abbiamo ammesso. Mi sono compromessa. Allora, posso esprimere la mia preferenza? A me è piaciuto lo zio, ecco. C'è un altro personaggio, ce ne sono una dozzina forse qualcosa meno. Sì, comunque ecco, c'è un personaggio molto più defilato, più discreto, meno dinamico, nel senso che non si muove, ma che in realtà è anche eversivo, insomma, sì, in un certo senso ha condotto una vita fuori dagli schemi, ma è rimasto anche autentico. E a me è piaciuto molto. Quello che volevo chiedere era appunto questa dimensione, anche questo legame che ho colto con le origini, con la famiglia, il paese. Ecco, che peso ha nella tua vita e perché ritorna in questa maniera anche in un romanzo così globale, così veloce? Perché penso che comunque quello che dà un senso a tutto, nei momenti in cui ci sentiamo senza un baricentro, senza un equilibrio, è proprio un tornare alle nostre radici, tornare alle cose che ci sono state care o che ci sono ancora care. E lo zio è un personaggio appunto che, come dici tu, c'è e non c'è, cioè si sa che esiste, è presente, però salta fuori nei momenti in cui c'è estremo bisogno di certezze e di ritrovare una certa centralità. Ma questo sì, anche per me avviene così. Devo dire che le mie origini, le mie radici, i miei affetti hanno una parte importante nei momenti di così, nei quali magari siamo un attimino in balia delle correnti o degli eventi che non sempre sono preventivati. Quindi lo zio rappresenta sicuramente per Sara, per la protagonista, il punto fermo, l'ancora, quello che comunque c'è, e questa figura trasgressiva a modo suo è sicuramente una figura nodale, perché lo zio è quello che avrebbe potuto, in tutta questa globalizzazione, pur essendo vissuto in tempi nei quali non era così facile spostarsi, muoversi, era quello che per il lavoro che ha fatto, per un vissuto personale, per tutta una serie di cose avrebbe sicuramente potuto lasciare il paese, però non l'ha fatto. È stato quello che forse fra i tanti avrebbe potuto senza nessuna remora, non l'ha fatto, è sempre rimasto ancorato alla famiglia, comunque al luogo, e non per questo però ha perso i contatti col mondo, anzi è rimasto molto calato nel mondo, nella realtà, ed è uno zio che nonostante l'età avanzata non dà giudizi sulle cose, sulle cose che avvengono, ed è forse molto più giovane di spirito di molti altri personaggi magari, sì, mantiene una lucidità che va al di fuori di quello che è il tempo, insomma. Sì, dà l'impressione di una persona coraggiosa che fa delle scelte pesanti, ma che a dispetto dell'altro protagonista, dell'altro personaggio, Michele, insomma, ecco, l'antitesi. Esatto, no, l'antitesi, ecco. Infatti. Sì, quello che torno a dire rispetto anche alle letture e al colloquio che abbiamo avuto con Rossella è proprio questa tavolozza fatta di personaggi che compongono storie, che si incrociano, si intrecciano con dei legami molto all'apparenza diafani, eterei, insomma, che si pronti a sfilarsi, ma che in realtà sono molto saldi e che permettono alla narrazione di collegare gli eventi ed avere un finale con una suspense che è tutta da scoprire, che vi invitiamo anzi a leggere. Sì, ecco. Sì, infatti sono come i fili di un tessuto, come la trama di una trama tessuta, cioè sono molto amalgamati tra di loro, eterogenei, però nello stesso tempo complementari, necessari l'uno all'altro, e infatti non è stato facile tenerli tutti a bada, perché erano tanti, perché dovevano intersecarsi bene, dovevano comunque avere una logica tra loro, e sì, insomma non è stato facile, però insomma il risultato finale, a quanto mi viene detto, è quello comunque di una suspense, un nulla di scontato, e appunto quando le cose sembrano prendere una direzione o il lettore dice vabbè meno male, adesso va così, ormai interviene qualcosa che devia i destini, come ad esempio l'11 settembre, se magari Mara vuole leggerci il pezzo. Una piccola traccia sul finale, perché non li risvegliamo assolutamente più di tanto, anche perché poi ci sono vari colpi di scena, però questo è forte, attinto e forte. Quella sera andai a dormire presto, tormentata dal mal di testa. Il rumore della pioggia che cadeva incessante sulla città era amplificato dalle fitte che mi pungevano le tempie. Solo all'alba sprofondai in un sonno pesante e senza sogni. Non sentii neppure Simona che si alzava. Intorno alle 8 mi svegliai di soprassalto, in un bagno di sudore. Che strano inizio di giornata, pensai, approfittando degli ultimi momenti di ozio sotto alle lenzuola. Il mal di testa se n'era andato insieme alla pioggia, lasciando il posto al sole che illuminava il cielo perso. Dal caffè tiepido racchiuso nella caffettiera, dedussi che Jasmine era uscita da poco. Mancava qualche minuto alle 9 e mi stavo mettendo le scarpe, quando istintivamente afferrai il telecomando e accesi la TV. Non la guardavo mai la mattina e mi chiedevo quale inconscio meccanismo mi avesse portata a compiere quel gesto. Le immagini irreali mi fecero capire che qualcosa non andava. Un grattacielo di vetro grigio era tagliato a metà da una colonna di fumo. Sotto le immagini una scritta che non lasciava spazio alle illusioni. Live. Inebetita osservavo una delle torri del World Trade Center che stava bruciando. La densa colonna di fumo si alzava nel cielo limpido facendo da sfondo ai commenti dell'atterrito giornalista di NY1. Rimasi in piedi, con una scarpa ancora in mano. Non ebbi nemmeno il tempo di riavermi dallo shock. Un altro aereo, lanciato a folle velocità, si abbatteva sull'altra torre. Vidi il telecronista impallidire e urlare. La scarpa che tenevo in mano mi cadde. Continuavo a non capire. Fuoco, fumo, vetri frantumati, rottami. Un'altra nuvola grigia si spandeva nel cielo azzurro. Guardai l'orologio. Segnava le 9:05. Il giornalista continuava a parlare concitato. Le prime notizie cominciavano a trapelare. Attentato. Quella era la parola che sembrava avere la meglio sulle altre. Attentato. Ripetevo a bassa voce, come se pronunciassi una bestemmia. Due aerei erano stati dirottati. I piloti si erano scagliati contro uno dei simboli di New York. Che senso ha tutto questo? Mi chiedevo. Forse è l'inizio di una guerra. Ma una guerra contro chi e contro che cosa? Provai a chiamare Jan. La voce registrata mi informava che l'abbonato non era raggiungibile. E tutto continuava a sembrarmi una lugubre equazione matematica. Scesi i gradini a due per catapultarmi in strada. Il tepore del sole nel cielo senza una nuvola. I marciapiedi quasi deserti. Mi fecero pensare che forse si trattava di un brutto sogno. La radio accesa all'interno del taxi mi riportò alla realtà. L'orologio vicino al tassametro segnava le 10 passate da qualche minuto. La Torre Sud era crollata. Ecco, di solito chiediamo al pubblico se c'è qualche domanda, se c'è qualche curiosità, ecco, da rivolgere all'autore. Io domande non ne ho perché l'ho letto, però è di una lettura piacevolissima e soprattutto anche certi aggettivi che lei usa, parlando anche delle valigie, cioè non dice una valigia appoggiata di plastica, ma ti descrive le rotelle, il manico, cioè sì. Sono quelle cose cioè, ti attirano e poi insomma è anche una bella lettura che non ci impieghi tantissimo, cioè, vuoi andare avanti, ecco. Sì, sì. Vedere cosa c'è poi, sì, è vero. È una cosa che trascina. Sì, una descrizione veloce, visiva, sì, molto. Sì, ha degli spazi che uno può meditare, cioè non è una cosa lunga che ti descrive, cioè lascia meditare il lettore, passa da un posto all'altro, ecco proprio, sì. E che è interessante anche quello. Sì, certo. Sì, infatti la scelta comunque di cambi di scena abbastanza veloci è stata una scelta che ho fatto proprio per non annoiare il lettore, per dargli una visione globale, però senza fossilizzarlo magari per troppe pagine su un avvenimento. Questo cambio di scena come veloce, come delle quinte teatrali che si aprono, si chiudono e comunque danno la visione d'insieme a tutto il romanzo. Questa è stata una scelta, i capitoli sono capitoli brevi, c'è una divisione in parti, all'interno delle parti una ulteriore suddivisione in capitoli che però sono abbastanza brevi proprio per dare ritmo, dare scorrevolezza al romanzo. Questo l'ho pensato così. Deve essere difficile anche renderlo, sì, così scorrevole. Sì, non è immagino. Stato un lavoro facile, infatti questa è stata la terza stesura. Ho dovuto veramente tagliare, lavorare. La prima stesura è stata quella dove ho dato molta importanza alla trama. Successivamente ho rivisto trama e forma, e la terza è stata quella dove ho curato di più la forma e ho appunto cercato di dargli questo taglio veloce, questo, di rendere un po' più incisiva la scrittura. Questo ha beneficio, mi auguro, del lettore che lo legge agevolmente, velocemente, senza difficoltà. Direi che ho fatto questa scelta pensando appunto ad agevolare. Ci sono in previsione altri racconti, altri romanzi? Allora, c'è in lavorazione un romanzo che è un romanzo diverso, è un romanzo d'ambientazione storica. E che mi ha richiesto parecchia documentazione, me ne sta richiedendo ancora. E non è così globalizzato perché comunque non è appunto ambientato ai tempi di adesso, ed è un romanzo ambientato in regione. Ah, e in che periodo? Sì, è la seconda metà del Settecento. Ah, però un periodo particolare. Sì. Che di solito siamo tutti orientati più verso il moderno, oppure... Sì, infatti ho fatto... Ma quello è un contesto storico non ancora tanto sviluppato. Sì, non ancora molto sviluppato, però l'ho, come dire, ambientato in quel periodo. Vedremo dove vado a finire con i tempi. Allora ci prenotiamo un'altra presentazione. Sì, sicuramente me la chiederò. Va bene. Grazie. Sì, c'è ancora qualche domanda? O... Posso chiedere il titolo? Cioè, sì, ok, sì. Del foulard capisco, però perché i quadrifogli? Il tempo dei quadrifogli? Certo, allora, forse non ne abbiamo parlato tanto in questa presentazione, ma il filo conduttore, quello dal quale appunto scaturisce l'amicizia, ma che poi ricorre molto all'interno del romanzo, è la presenza di questo batik. C'è questa ricerca di manualità che lenisce dolori, aiuta nei momenti di difficoltà e in un momento di gioia... viene deciso che ci sarà un abito da sposa, non svelo di chi, che dovrà essere disegnato, cioè dovrà essere confezionato usando una stoffa che sarà un tessuto batik sul quale verranno riportati dei quadrifogli. Verrà indossato questo abito, non verrà indossato, non ve lo dico. Comunque i quadrifogli di seta sono quelli che vengano impressi su questa seta appunto per creare questo abito di nozze che viene creato, cioè Il tempo è perché questa storia appunto ha una scansione temporale che va più o meno dalla metà degli anni 80 fino ai primi anni del 2000 e è appunto una storia nella quale il batik ha un ruolo importante, quindi l'ho un po' connotato come il tempo dei quadrifogli di seta, sì, riferito forse in una sezione più ampia al tempo del batik, di questa manualità, di questa amicizia e di tutti questi personaggi che comunque si conoscono grazie a questa tecnica. Comunque è un abito da sposa. Se posso chiedere, perché è una mia curiosità, questo tuo interesse per il batik? Guarda, questo non lo so, nel senso che io ho visto un quadro un giorno che mi ha particolarmente colpito ed era un quadro fatto con la tecnica batik. Ne avevo visti anche altri, perché non è una cosa così rara vedere un dipinto, insomma, batik o comunque altre cose. Questo mi ha colpito, era africano, e ho cominciato a pensare cosa ci sarà dietro, chi l'avrà fatto. E ho cominciato a immaginare quello che poteva esserci oltre quel quadro e da lì è nata una mia curiosità e mi sono chiesta come era fatto. Odorava di cera perché non aveva la cornice, quindi anche questo odore di cera mi ha, non lo so, mi ha come inebriata e mi sono chiesta appunto, ho voluto saperne di più su questa tecnica e da lì mi sono documentato, ho cercato altre cose, anche oggetti e poi è partita la storia. Solo che anche lì non ho voluto trovare una persona, cioè ho voluto pensare che anche qui ci fosse una diversità che univa, cioè il batik è una tecnica tipica dell'Indonesia, che però nel mio romanzo chi lo porta avanti è una ragazza italiana che ha questa passione, che è rimasta folgorata da questa tecnica nel corso di un viaggio che aveva fatto con i genitori. E quindi forse questa globalizzazione di cui parlavi tu, cioè sì, questa ricerca del globale o comunque questo voler poter conoscere, sì, no? Poter conoscere, ampliare comunque gli orizzonti o appropriarsi sì, di cose altrui, esatto, di culture che altrui. Sì. Ecco, direi che è nata così quella del batik, dall'odore di cera e da sto quadro che mi ha ipnotizzato e dalla voglia di saperne di più. Allora, ringraziamo Rossella Sartini, Mara Daroita per aver dato voce ai personaggi e a tutte le descrizioni. E il nostro pubblico che è venuto questa sera in biblioteca, la prossima settimana ci sarà un'altra iniziativa, sulle sedie avete la cartolina, l'invito. E ecco, grazie a tutti, grazie. Grazie.